Strasburgo, vertice con Merkel e Sarkozy. Borse europee in rialzo, spread BTP Bund sotto 470 punti. Fiat a Termini Imerese, ultimo giorno tra rabbia e dolore. Maltempo, la situazione migliora in Sicilia, allerta in Calabria, Puglia e Basilicata. Una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Sulla riva dell'Illa a Strasburgo, il vertice trilaterale Monti, Merkel, Sarkozy. Partiamo da qui in diretta con Strasburgo con Gerardo Pelosi. Gerardo. Buongiorno a voi. Da circa un quarto d'ora il presidente Sarkozy, la cancelliera Merkel e il presidente del Consiglio italiano Mario Monti si trovano a colazione nella prefettura di Strasburgo. Sono arrivati in orario, tranne la Merkel che ha avuto un piccolo problema tecnico, poi si è congiunta con Sarkozy e Monti. Sul tavolo ovviamente i problemi della crisi dell'Eurozona, la preparazione del Consiglio dell'Unione Europea del 9 dicembre che ha l'argomento centrale il tema della riforma dei trattati per rendere la sorveglianza sui debiti molto più stringente. Prego, dimmi. Che cosa ci si aspetta? Oggi è un vertice significativo, è un po', qualcuno ha scritto, il ritorno dell'Italia, insomma, in primo piano. Sì, non si ricordano negli ultimi anni, ma forse anche negli ultimi decenni, incontri di questo tipo. La grave crisi evidentemente ha reso necessaria una concertazione maggiore, quindi il motore franco-tedesco ha bisogno di un aiuto e quell'aiuto lo può dare l'Italia anche come ponte con gli altri paesi dell'Unione Europea. Non si tratta di creare nuovi direttori, tengono a precisare fonti del Palazzo Chigi, ma di favorire il metodo comunitario, quindi che rimane al centro della costruzione europea. Grazie a Gerardo Pelosi da Strasburgo per questi aggiornamenti e vi ricordo che domani il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn sarà a Roma, dove incontrerà il primo ministro Monti, incontrerà anche il ministro dello sviluppo economico Passera, quello del lavoro Ersa Fornero ed il direttore generale della Banca d'Italia Saccomanni. La reazione del mondo produttivo alle prime mosse di Monti, le reazioni sono positive e sono arrivate oggi anche da Roma, dall'assemblea CNA, dove c'è per noi Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, è così, mondo produttivo riunito stamani per l'Assemblea Nazionale della CNA, assemblea che si è aperta con il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Napolitano. Il Capo dello Stato ha ricordato la necessità che si avvii una nuova stagione di riforme strutturali fondamentali alla crescita del Paese. Il tutto però ha avvertito Napolitano coerentemente alla riaffermazione delle ragioni di una più forte coesione sociale. Di qui l'appello del Quirinale perché vi sia una comune assunzione di responsabilità. Il tema delle riforme dunque centrale per il futuro dell'Italia, lo ha ricordato il presidente della CNA Malavasi, lo ha sottolineato la presidente di Confindustria Marcegaglia, pensioni di anzianità e fisco, le priorità secondo gli industriali. Sentiamo allora la Marcegaglia. Non solo per fare cassa, ma per appunto utilizzare le risorse rinvenienti per aiutare, supportare, quindi ridurre il costo del lavoro dei giovani, del lavoro delle donne, che sono un problema molto serio nel nostro paese. Il secondo, una riforma fiscale molto chiara da fare subito, che abbia un obiettivo molto chiaro, cioè quello di abbassare le tasse su chi tiene in piedi questo paese, quindi i lavoratori e le imprese di tutti i tipi. Intervento telefonico, quello di Emma Marcegaglia, l'assemblea della CNA, in videoconferenza quindi il neo ministro del welfare Elsa Fornero, che ha parlato di pensioni. La riforma delle pensioni è già stata largamente fatta, ha detto il ministro, ma necessita di tempi più accelerati di quelli previsti. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, poi ascolteremo la Fornero, ma sul Fiat. Adesso restiamo a Roma, ma per parlare del fronte interno, perché domani c'è un importante consiglio dei ministri. Elisabetta Fiorito. Sì, Consiglio dei Ministri convocato per domattina alle 9.30, probabilmente per sciogliere il nodo sui sottosegretari. Non figurano infatti nell'ordine del giorno le misure anticrisi, dopo l'auspicio lanciato ieri dal Ministro della Salute Renato Balduzzi sulla possibilità di politici. Il Ministro della Cooperazione Internazionale Andrea Monti spiega che sarà il Premier Mario Monti a sceglierli. Il PDL sforza il governo, per Margherita Boniver si sta perdendo troppo tempo. Da parte dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro chiede che ci siano solo tecnici. 12, mentre il portavoce di Articolo 21 Giuseppe Giulietti chiede a Monti di non ascoltare i partiti, i gruppi di interessi o i portatori insani di conflitto di interesse. Ogni tanto ci si sente, chiosa poi il segretario PD Pierluigi Bersani a chi gli chiede se ha intenzione di incontrare il Premier, negando ancora una volta incontri tra i leader politici e Monti proprio per sciogliere il nodo dei sottosegretari. Infine il segretario del PDL Angelino Alfano pensa a rilanciare il partito, a dicembre avranno inizio i congressi. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta, ed oggi sulle piazze finanziarie giornata positiva. Fitch ha intanto tagliato il rating del Portogallo a junk, spazzatura. Sentiamo come procede sulle piazze finanziarie con la nostra Deborah Rosciani. Sì, non fa neanche più notizia l'ennesimo intervento di un'agenzia di rating sui mercati, tant'è vero che oggi le borse quantomeno riescono a portare a casa un rimbalzo un po' più consistente rispetto a quello che avevano anche tentato nelle mattinate degli ultimi giorni, poi vanificato nel corso delle sedute. Prima di dare un'occhiata alle prestazioni degli indici, una notizia d'agenzia: Intesa San Paolo ha preso il via poco fa il consiglio di sorveglianza per la designazione del nuovo amministratore delegato del gruppo bancario, che sarà Enrico Tommaso Cucchiani, plenipotenziario di Allianz in Italia, e come è noto appunto il nuovo manager praticamente sostituisce Corrado Passera, che è andato a fare il ministro dello sviluppo economico nell'esecutivo Monti. Le piazze finanziarie: Milano guadagna 2 punti in questo momento, Londra molto meno, più 0,49%, Parigi più 1,75%, Francoforte più 1,72%, la schiarita sui mercati arriva per una serie di notizie, o quantomeno gli investitori oggi guardano a queste, che arrivano dalla Germania. Il prodotto interno lordo nel terzo trimestre è cresciuto di 0,5 punto percentuale, la lettura finale. L'IFO tedesco, il termometro della fiducia delle imprese tedesche, è salito a sorpresa a novembre a 106,6 punti, ma soprattutto, secondo la stampa tedesca, il governo tedesco non escluderebbe più categoricamente gli euro bond come strumento per contrastare la crisi del debito, un segnale di fiducia che oggi viene colto positivamente dal mercato. Lo spread fra BTP e bund è sui 480 punti base, ancora una soglia che disturba un po' gli investitori, ma in ogni caso oggi un po' in rallentamento rispetto a ieri. È tutto. Grazie Deborah. La crisi economica globale chiede il coraggio della fraternità, ha detto questa mattina il Papa nell'udienza alla Caritas italiana. Intanto c'è una notizia importante che riguarda le banche. La Commissione europea si è rivolta alla Corte di Giustizia per chiedere che imponga all'Italia una multa da quasi 97.000 euro al giorno finché non si adeguerà alla direttiva sui requisiti patrimoniali e sulla politica di bonus delle banche. Secondo quanto precisato, l'Italia è l'unico paese che non ha ancora recepito alcun aspetto della direttiva. E noi parliamo del caso Finmeccanica. Dalle pagine del Fatto Quotidiano è tornato a parlarne anche il presidente Guarguaglini. Intanto oggi verrà ascoltato l'ex amministratore delegato di Enava, Pugliesi. Non mi dimetto perché non ho mai ricevuto un avviso di garanzia e perché nessuno mi ha chiesto di lasciare. Pierfrancesco Guarguaglini parla dalle pagine del Fatto Quotidiano e si dice convinto di essere nel giusto. Non mollo perché ho a cuore il bene della mia società. Nonostante sia indagato, il presidente ricostruisce così la realtà. La comunicazione del GIP è arrivata, ma non era specificata la motivazione per cui il giudice stesse indagando. E poi la nota di Palazzo Chigi, poche secche righe, con le quali veniva sollecitato un gesto di responsabilità. Solo una battuta, secondo Guarguaglini, nulla di più. E Borgogni, il suo braccio destro, che ha mandato in Svizzera più di 5 milioni di euro. Il presidente dice che aspetterà l'esito delle indagini e sì, può aver commesso uno sbaglio. Nei fatti il governo, azionista di riferimento, preme perché si arrivi a una soluzione. La prossima settimana dovrebbe essere convocato un CDA straordinario. Guarguaglini potrebbe presentarsi dimissionario o almeno rimettere le deleghe, ma potrebbe essere lo stesso Ministero dell'Economia a sollevare dall'incarico il presidente. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi è l'ultimo giorno di lavoro allo stabilimento Fiat di Termini Imerese, che chiude un'era iniziata nel 1970. È un giorno che davvero speravamo non arrivasse mai, ha esordito il sindaco di Termini, Salvatore Burrafato, davanti ai cancelli della Fiat, dove gli operai sono riuniti in assemblea. Questa mattina Burrafato è stato ospite a Prima Edizione, al microfono di Anna Migliorati. Abbiamo dinanzi un altro percorso che ci porterà, speriamo, a produrre, a continuare a produrre auto grazie alla BR Motors che verrà a Termini Imerese, ma al contempo abbiamo la necessità, e in questi mesi li abbiamo utilizzati anche per pensare ad altro. Ed è la cosa che ci fa più rabbia, la vocazione di questo territorio è ben altra, lo stabilimento Fiat è a 20 metri dal mare in una fascia di litorale bellissima, sacrificata e messa a servizio di Fiat. Vorrei poter essere certo che questo processo di reindustrializzazione che fosse davvero forte e capace di radicarsi per continuare ad avere una vocazione industriale, però sono al contrario convinto che stia in qualche maniera, forse tardivamente, risvegliando nella comunità, nel sentire della gente, c'è questa voglia di riprendersi ciò che per tanto tempo non è stato considerato utile ai fini della ricchezza del lavoro. Un turismo di nicchia, non un turismo di quantità, e dall'altro lato far maturare in questa città la logica anche di una cultura di impresa che purtroppo non abbiamo. E di Fiat ha parlato questa mattina all'assemblea CNA il ministro Fornero, sentiamola. La Fiat è da sempre un simbolo di capacità produttiva e anche un simbolo di identità nazionale. La sua produzione si avvale di un indotto numeroso, largamente composto di imprese artigiane. All'insegna dei principi prima menzionati di rigore, equità e crescita, il governo sta seguendo con moltissima attenzione il caso Fiat, nella convinzione che le parti comprendano e condividano questo approccio. Il maltempo, nuova giornata di allarme oggi per il sud, in Calabria, Puglia e Basilicata, va meglio invece in Sicilia. Il ritardo nella prevenzione del rischio idrogeologico in Italia è enorme. Nel 98 si stimava che fossero necessari 40 miliardi per ridurre i pericoli, ma nonostante questo negli ultimi 11 anni ne sono stati spesi solo 3 per la sicurezza. Fronteggiare le emergenze però ci è costato tra i 2 e i 3 miliardi e mezzo l'anno. In Olanda invece, dopo la l'alluvione del 53 che uccise 2000 persone, si è lavorato costantemente alla difesa del territorio. Laura Bettini ha intervistato Wim Kalkon, il commissario di governo del programma Delta per la protezione del paese dalle acque. I cambiamenti climatici sono un problema per tutti, e in particolare in Olanda. Abbiamo ovviamente le politiche di mitigazione, che sono le politiche europee, ma abbiamo anche le nostre azioni. L'Olanda è in gran parte un delta. Il 60% del nostro paese è a rischio esondazione, quindi dobbiamo proteggerci molto bene. Per mettere in sicurezza il vostro paese avete bisogno ovviamente di monitoraggi e continui investimenti. Da dove arrivano i finanziamenti? Il governo si è dotato di un Delta Act e in questo atto è previsto un fondo per finanziare le azioni da intraprendere. Questo fondo è alimentato dallo Stato con 1 miliardo di euro all'anno per le misure che dobbiamo intraprendere per difenderci da mare e fiumi. Sono soldi dei contribuenti ad essere stanziati, ma questo è un settore vitale per il nostro paese. Le 13 e 17 minuti nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato di Monti volato a Strasburgo per incontrare oggi la Merkel e Sarkozy. Abbiamo parlato anche delle borse europee che oggi sono in rialzo. Lo spread BTP Bund è a 480 punti. Abbiamo parlato di Fiat perché a Termini Imerese è l'ultimo giorno tra rabbia e dolore. Tra poco parleremo anche di una sentenza della Corte di Giustizia europea. Ha vietato imporre filtri ai provider internet per bloccare la pirateria. E allora ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Sin qui i nostri titoli, ma noi subito andiamo in Egitto, dove è cominciato al Cairo il previsto incontro tra il presidente dell'ANP Abu Mazen ed il leader politico di Hamas, Khaled Meshal, durante il quale dovrebbero essere discussi numerosi aspetti della riconciliazione palestinese. Al Cairo, a Piazza Tahrir, intanto resta un presidio e anche una forte tensione. E allora noi ci colleghiamo con Piazza Tahrir con Ugo Tramballi. Ugo. Sì, buongiorno. Qui la piazza è piena come al solito di giovani, ma manca la politica, mancano i politici, mancano i leader politici, quindi la piazza praticamente qua coagulata soprattutto contro la polizia a causa degli scontri e dei morti che ci sono stati. Ma se togliamo l'ostilità verso la polizia, verso le provocazioni della polizia che sono durate per tutta la settimana, qua i giovani non hanno più un obiettivo politico. La politica sta avvenendo totalmente fuori da questa, che è sempre più isolata dagli avvenimenti. Stamattina è stato deciso che si va comunque al voto lunedì, e sono tutti d'accordo, i partiti, soprattutto la Fratellanza Islamica, mi dice non essere d'accordo sono i ragazzi qui in piazza, ma che sono completamente isolati, sempre più isolati dal resto del paese. Grazie, grazie ad Ugo Tramballi che ci ha fatto sentire anche l'atmosfera di piazza Tahrir. Noi restiamo all'estero ma ci spostiamo in Russia, dove mancano 2 settimane al voto. L'esito non è in discussione, ma si incrina la diarchia al potere da 10 anni. Inaspettatamente la campagna elettorale russa si è ravvivata. Sembrava avviata all'apatia e allo sconforto di blogger, oppositori e in generale russi arrabbiati, ma rassegnati a veder vincere ancora una volta alle parlamentari del 4 dicembre Russia Unita, il partito di Putin che si riproporrà poi a primavera per il Cremlino. Lo chiamano il partito dei ladri, dei corrotti e dei burocrati. La gente è stanca degli squilibri sociali ed economici, è stanca di non avere alternative. Così, dietro alla rassegnazione, la tensione sta crescendo. Ed è come se i fischi che domenica hanno accolto Putin allo Stadio Olimpico, prima manifestazione di dissenso verso uno zar finora indiscusso, abbiano infranto un incantesimo. E non è un caso che ieri alla Duma i deputati dell'opposizione non si siano alzati in piedi al passaggio di Putin. Un amico ha detto: i russi hanno pazienza, all'inizio adorano il loro zar come avvenne con Yeltsin, ma il periodo di tolleranza è di 10 anni. Quelli di Putin sono scaduti. E ora il rischio è che per recuperare popolarità faccia leva sullo spettro del nazionalismo, esaltando la supremazia russa e attaccando gli immigrati. Oppure riaccendendo le tensioni con l'esterno, proprio come ha fatto ieri Medvedev, attaccando lo scudo spaziale americano. Antonella Scott, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia, dovrà ripartire da zero il processo in corso a Milano per l'omicidio di Lea Garofalo, la testimone di giustizia sciolta nell'acido dall'ex compagno affiliato alla 'Ndrangheta. A causare questa situazione è la sostituzione del presidente della Corte d'Assise, nominato capo di gabinetto dal neo ministro della giustizia. Denise, la figlia della vittima, costretta da tempo a vivere sotto protezione, sarà dunque nuovamente chiamata a testimoniare contro il padre. Siamo sconcertati, dice Roberto D'Ippolito, legale della famiglia Garofalo. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Beh, devo dire con molta sincerità che siamo rimasti sconcertati, soprattutto la sorella e la madre di Garofalo non riescono a comprendere come questo possa accadere, e dal loro punto di vista, e io li comprendo, è una mancanza di rispetto, ecco, verso il dolore delle vittime e verso quello che è una legittima aspettativa alla giustizia, ecco. Secondo lei si poteva evitare tutto questo? Diciamo che la sostituzione del presidente era inevitabile, è ovvio. Qui magari era una questione di valutazione, di opportunità, se si poteva arrivare ad una scelta del genere, sapendo che si andava incontro a conseguenze processuali di questo tipo che coinvolgono tante persone, anche lo stesso ministero, di questo credo che ne avrebbe dovuto tener conto. Un aspetto che preoccupa molto è il fatto che a luglio gli imputati potrebbero a questo punto uscire dal carcere. Diciamo che adesso bisognerà imporre una scaletta molto serrata di udienze e dobbiamo scongiurare in tutti i modi questo pericolo. Parole rassicuranti sono poi arrivate dal presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara, ha detto che i giudici hanno a disposizione le norme che gli consentiranno di non vanificare il processo. Un altro incredibile caso di evasione fiscale all'italiana viene riportato oggi sui giornali. Una coppia veronese che aveva dichiarato di avere soli 6 euro ma possedeva decine di milioni. E noi continuiamo come ogni giorno a raccontarvi il paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. L'ultima puntata è sui giornali di oggi. La Cassazione ha annullato l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare di Milano ad aprile aveva prosciolto gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana dalle accuse di presunta evasione fiscale per circa 1 miliardo di euro. Secondo l'accusa, la Grif avrebbe creato una società estera, la Gado, con base in Lussemburgo, che di fatto veniva però gestita in Italia. Scatole cinesi che permettevano di pagare il 4% di tasse in Lussemburgo e nessuna tassa in Italia. Una tecnica chiamata esterovestizione, molto in voga paradossalmente nel mondo dell'alta moda.